attenzione. Ora c'è qualcuno su di ci cambio per un controllo, grazie. Sì, avanti. Avanti Gianni. Eia, ciao Fabi. Sono Gianni, dai. Ascolta, sto provando un 747 a vedere se va bene, l'ho appena piazzato. Allora, così, guarda, mi segnali, visto che c'hai un apparecchio serio, tu. E poi, adesso te lo devo spegnere. E così è senza. Ha fatto, ha aumentato qualcosa? Ma praticamente no, faccio da 9 a 9.10. È giusto allora. Quindi come il segnale rimane invariato? Sì, sì, ma è giusto, da così, 747, da. Cappa, la radio com'è? Pensato tutto in macchina, finalmente ce l'ho fatta. La radio è ultima, va benissimo. La radio è un coso, è il 980, dai. Ho messo il 980 in macchina, Magnum 980, alias 47, il Magnum è quasi uguale al Magnum S9, però è il modello nuovo, là. No, va benissimo, va bene, va bene. Va, sono contento, là. Quindi il suo lavoro lo fa, là. L'ho piazzato tutto perfettamente. No, va bene, dai. Per me la nave qui sta andando bene. Cavolo, mi sto afferrando col cancello, apre solo la metà. Che cosa l'ha pigliato, là? Io non c'esco con la macchina così, poi se si chiude sta difettando. Scendi e prova ad aprirlo. Sì, aspetta. Buona idea, Fabio. Come? Buona idea, non per far male. E se no la potevo uscire, no? Perché non si sa mai, si deve essere rotto il motore di una parte, perché ha preso la lampada. Cazzo, questo motore l'avevamo piazzato, i motori, il giorno dopo ce li hanno rubati. Ce li hanno rubati tutti e due, appena piazzati. A me mi fa che ce li hanno piazzati, li ha curati, tu? Non è così, non è proprio così, in sardo non so come si dice, ma si dice chi li ha portati se li ha riportati via, quando sparisce la roba appena portata, era successo anche noi in una costruzione, tutto il cemento portato, la nota è sparita, chi l'ha portato se l'ha riportato. E allora, sapeva come smontarli, come c'è, cioè, uno che non è del mestiere, non fa una cosa del genere. Ma non il giorno dopo. Infatti. Va bene, già, ti lascio che proseguo. Adesso sto camminando, dai, voglio provare, ho messo la Turbo 2001 con la magnetica, e poi il 980 e il 747, dai, tutto alla grande sta andando. Non è il 920, va bene, anche se c'ho l'antenna io che ho smontato tutti i radiali, perché li devo ricostruire, quindi sono senza radiali, cioè un stazionare in zero sempre, se sta facendo un buon piano di massa ugualmente. Io qua, l'errore che ho fatto è a buttarla giù quella che c'avevo e a mettermi la Game Master, mi ha giovato l'errore, andava bene uno e uno di stazionare anche senza radiali, va bene che le cornacchie di volta me li rompeva, ma poi ho messo la Game Master, mi è durato 8 mesi e il vento me l'ha filata, capito? Ma usate voi con la Game Master, se dovete stare in 27 mettete una 5 ottavi e va molto meglio, è normale, no? Sia come guadagni tutto. No, è una 5 ottavi anche quella che ho preso io, è una 5 ottavi, però dice che resiste 160 km orari, io ho detto vabbè, per me va bene perché così almeno non si calano le cornacchie eccetera eccetera, invece non ho fatto certo un affare. Ma non è un buon piano di massa secondo me per come è fatta quell'antenna, boh, vabbè, comunque. Vabbè, ma oramai me la sfrutto quando poi, solo che Fabri adesso io non so più che antenna prendere, prima io avevo sempre avuto Mantova, Mantova 1, Mantova 5 eccetera eccetera, ho avuto una Grand Prix della Lema e poi subito Mantova sempre, adesso non ne fanno più e quelle che fanno te le vedono prezzi esorbitanti. Lo so, è così, e va bene, io ti lascio già che so che mi devo allontanare un attimino dalla radio. A Fabri ti ringrazio, dai, ci sentiamo, buona serata. Ciao, buona serata già. Cucù, c'è qualcuno in questo canale Gambia? Ciao già, sono io, però mi sto preparando, volevo andare al bar da mia figlia. Semmai ci sentiamo dopo, ok? Saluto anche a Fabrizio, ciao ciao. Chi è? Cosa? Claudio! Io parlo chi è? Cazzo non mi hai riconosciuto? No, sinceramente no, perché sei tratto così di botto. Controllami il segnale, cosa sei? Col Kingwood? No, no, sono sempre col Midland, il 574, quello che ti ho mandato la foto. Non sto più usando il Kingwood, sto usando sempre il baracchino. Fammi vedere. Ma non l'ho registrato ancora lo Smitter già, perché no, non ha giurato di stare a aprire a fare. Sì, sul più del 3, sì. Ma è tra l'altro molto generoso rispetto agli altri baracchini. Abbai da Como, 1, 2, 3, prova, Gambir. Doppio rum è ritornato alla base. Ma cosa hai messo? Ma in macchina, sì, fammi capire. E in macchina sono. E me cosa hai messo? Di nuovo al 48. 747. Al 747 al Magnum. Eia. Già, sei fortissimo, sì, dopo il 3, sopra la D del 3, sì. Non te lo posso dare con questo segnale, devo cambiare il radio. Però credimi che adesso non ho tempo, perché devo chiedere molta roba, devo mettere in magazzino roba da Ilaria, ok? Cava, cava. Ehi, vabbè, te ne stai andando? Ehi, ah, devo scappare già. Scappa, scappa, vai, tranquillo. Vabbè, io, vabbè, ok, ti faccio sapere, dai. Se sei in fretta adesso no, dai. No, già adesso non ti posso dedicare manco un minuto, devo scappare perché mi sta aspettando, che devo portare la roba dentro. Che alle 6 deve chiudere, capito? Se no è un casino. Ciao, ciao, ciao, sentiamo dopo. Ehi, ciao, ciao Claudio. Avanti se c'è qualcuno sul 10, Gambio. Che è avanti? A me già. Ue. Cattagatto. Dammi un controllo che sto provando un impianto nuovo che ho fatto. 9.15 sei già qua, da me. Ehi, aspetta, eh. Abbai da Como, Massimiliano. Quasi 9.20. Cattagatto. Sono in macchina, eh. Va bene, cazzo, sembra a casa. Ehi, sono in macchina, ho messo 747 in macchina. A voi che va bene già, va benissimo. La radio com'è? Limpida o satura? Come la senti? Perfetta, come che sia a casa, ti ho detto già. Allora va bene, possiamo spegnere tutto. Cappa già. Stazionario come si è messo? 1 e 2 qualcosa. È agganciato? Eia. Ehi, allora ce ne per i maiali, va bene, va bene. Ehi, l'antenna vuol dire molto, Massimiliano. La Turbo 2001 da quando la piatti c'ha uno di stazionario, nemmeno 1 e 1 c'ha. Quando li metti in lineare arriva 1 e 3 al massimo nei canali alti. No, va bene già, perfetto, va benissimo. Io qua ti ascolto bene. Andà bene, andà bene. Va bene, andà bene. Oggi lavorato? Beh, positivo, va. Io sono così, ho acceso, era qualche giorno così, va. Niente, mi ho acceso, giusto, sto entrando a farmi una doccia. E ti ho sentito, sono entrato. Gabba gabba. E visto quella cosa là è tutto risolto. Adesso mi dovrebbe arrivare tra il 22 e il 23. Va bene già, perché almeno è una cosa ordinata, capito? Va bene come l'hai fatto tu, va bene lo stesso, però quando c'è la cosa sua va meglio, va. Oh, non si muovono, eh. Oh. Quando me li ha dati Fusaro, quegli spinotti si muovevano, erano larghi. Gli altri più ristretti sino a quando entravano in casa, quindi non si muovono nulla, però vabbè, non mi piace, io so che così a me li incrocchi non mi piace. No, ma poi sai che cosa c'ha di bello quello spinotto? Quando tu inserisci i cavi che stringi bene tutto, poi lo spinotto che inserisce dove sei tu, quello c'ha un'altra vita a parte e rimane fermo, capito? Nel senso che se vuoi per toglierlo devi per forza prendere cacciavite, mi capisci? C'è una vite che blocca proprio lo spinotto dentro. Già, capito, ma le altre cose sono a morsettiera, l'attacco più e meno. Oh già, oh. Ma qualcosa mi dovevi dire che sto uscendo, come va? No, te la devo dire al telefono. Vabbè, dai, aspetta che ti chiamo, tanto sto uscendo, sto andando in macchina, vai. Ti chiamo al telefono, ok, ciao. Ehi, cava. Ti stavo dicendo, quando tu devi inserire quel cavo lì, muori la vite tranquilla da sotto, inserisci il cavo e poi stringi, capito? Come un mammut, va, diciamo così. È una cazzata, infatti così doveva essere dall'inizio, doveva essere così, dovevano fare l'ufficio direttamente quel pezzo lì che non si ne capitava più, senza stare a avere uno spinotto, lo facevano fisso e tu entravi in cavo e buh. Chiami Marivella! Vai, Luca Manicomio! Va bene, va, ciao Luca, ti saluto. Sì, perché così ci guadagnano due volte, capito? Prima una cosa, poi l'altra. Va bene, ok, dai, io ero di passaggio qua. Ci sentiamo più tardi, se coincide. Solo vi saluto a tutti con la buona serata, ciao. Ciao Massimiliano, ciao, ci sentiamo. E Luca, va. Ciao Massimiliano, ciao già. Già sta andando bene, già. Cappa, sono lì io mi adesso. Oh, bene, ma non telefono, che cazzo mi hai? Oh, già. A me si dice. E allora, Benivella, tu c'è Benivella Roma Test. Dove ce l'hai il telefono? Che non prende. A fianco. E non prende, che te ne scegli la grutta. Vabbè, ti chiamo io, Claudio. Andiamo, niente. Ehi. Mamma mia, cazzo. Mi sto preparando, va, tutto in fretta, un casino. Siamo uscite, dunque, ma dai. Già, aspetta che... Dove? Non prende, ho occupato, forse mi stai chiamando più. Ci sentiamo dopo, Lugarie. Ok. E io sono appena rientrato, io sono andato a fare un po' di compere, per fare la piccola festicciola sabato. Ehi, aspetta, sono ingaggiato. Attenzione Lucrezia, ci sei Gambio? Luca Manicomio, ci sei? Hola, attenzione binario 10, Gambio. Hola, c'è qualcuno su 10? Hola, attento 10. Hola. Attento 10. Avanti. Ciao Giulio, vabbè. Ciao, dove? Ehi, mi stavo leggendo. No, c'è solo 10 minuti, te ce l'avete, c'è qualcuno. Hai risposto tu. Ehi, anch'io. Ho acceso 10 minuti fa ed ero in ascolto. Così, leggendo. Niente di più, niente di speciale, diciamo, dai. Beh, adesso che sei tu qua in coso, mi hanno portato una fotografia in officina di vecchia gente, dai, e coetanei tuoi un po' più piccoli di mio padre, dai. Ettore, te lo ricordi tu, Serra? È certo che me lo ricordo, a voglia. Siamo stati 50 anni vicino e ogni tanto già lo vedevo, già lo vedo. Adesso non lo so, adesso sono già un annetto senza vederlo, da quando c'è il fatto dei contagi di virus, non sto più uscendo, per cui non l'ho più visto, solo prima lo vedevo tutti i giorni. No, che mi hanno portato una fotografia, c'è lui, siccome era giocato anche un periodo nella squadra di mio padre, e poi c'era tutta quella combricola di lì, da coso, Pilo, coso, Capo di Muto, tutta quella gente, Arcangelo, eccetera, eccetera, e Buffadore. Già me ne ricordo, sì, Cimer, tutta quella gente lì. Vabbè, altri tempi. Anche lui faceva parte della greffa di collegio lì, come si dice a Sassa, in collegio. Hai detto bene, collegio. Infatti questa fotografia era proprio quando l'avevano fatta nel campo nostro, i circoli, la lucciola, collegio e l'altro, chi era l'altro circolo, non me la metto, Raggio d'Oro, tre erano, che avevano fatto un triangolare. E c'era lui in fotografia, ma sto parlando, qualcuno dice che sta ancora lavorando, possibile? Ah, oh, non è vero, sono anni che ha venduto le macchine. Non è vero quello, assolutamente. Io, sino a un anno fa, lo vedevo tutti i giorni. Sino da gennaio in poi non l'ho più visto perché non sto più uscendo. Esco solo in caso di necessità e basta, ma niente di più. Non vado a fare la passeggiata come facevo prima, tutte le mattine, eccetera. E lo incontravo lì. se uno lo vuole trovare basta andare lì al Moccador di via Pascoli, angolo via Grazia Deledda, lui è sempre lì, tutte le mattine lui si siede a tavolino insieme ad altri amici e si fa la chiacchierata e la bevuta della birra. Perché quello, io sto parlando con me, non è possibile, quello c'ha più di 80 anni quell'uomo, no? Sì. Io penso che ne abbia anche 83, 82, 83 minimo, se non addirittura 84 anche, più o meno così. Sì, è più grande di me, di almeno 4-5 anni, sì, più grande. Infatti ho fatto il conto, guarda la fotografia, c'era anche Ettore Paolizzo, non so se l'hai conosciuto tu, comunque mio padre ne ha 87, quello ha giocato ai tempi di mio padre, quando era giovane mio padre, fai che mio padre ne venga 4 anni, però non di più perché era più o meno coetanee. Sì, ma è così, in effetti è così. Sì, ma quell'età ce l'ha quell'età. Vabbè, anch'io giocavo, quando giocavo a tuo padre giocavo anch'io, sempre quello. Anche se lui e io non si può ricordare di me perché io sono molto più giovane, una decina d'anni meno di lui, però è così, 10 no, ma io penso 6 o 7 sì, però meno di tuo padre, dai. Babbo ne ha 87, tu quanti ne hai giù? Allora sono 10, dai, io ne ho 78, 9 anni, dai, 9 anni di differenza. Io ne ho 78, 79 aprile. Ehi, vabbè, mio padre è un po' più grande. No, ma più o meno si conosceva. Tu da dove sei? Di che zona eri? Centro storico o zona dove stai l'ufficio, dove c'è il laboratorio? Allora, io abitavo al Monte Rosello Alto, zona via Alessandro Manzoni. Ho capito, dove c'è il laboratorio questo Ettore? Dove era Giulio Murito, il meccanico? Ecco, 50 metri più su di Giulio Murito, il meccanico di Vittorio e Giulio Murito. Ho capito. Un po' di anni c'è stato lì? Tantissimi anni, che si sa. Lui c'era prima di me, addirittura, però ha chiuso poi dopo di me, ha chiuso prima di me. Però aveva aperto prima di me, 50 anni buoni c'è stato, anche di più. Ma lui cos'era, figlio di falegname o che cosa? Beh, questo non lo so, questo non te lo so dire. So solo che lui ha fatto il falegname da ragazzino, questo sì, non ci sono dubbi. Però i genitori io non li ho conosciuti. Sì, io conosco la moglie, conosco i figli, conosco tutti, però non i suoi genitori, i genitori di Ettore, no. Ma perché ha avuto una discussione con una persona, ha detto, no, anche il padre era falegname, da piccolino ha iniziato col babbo. Ho detto, non lo so, io non lo conosco, l'ho visto una volta, mi ha detto, mi questo, Ettore, era venuto in officina, io lo conoscevo come te, che non aveva nessuno, era di quelli, tutto un pezzo, diciamo, dai. Ho capito, no, una persona abbastanza in gamba, no, Ettore già in gamba. È stato un tipo che si era tolto sempre la mosca da davanti al naso, si era sempre tolta, quando era giovane, non era facile picchiare Ettore, anche perché è stato sempre un uomo molto robusto, molto forte. Solo una volta so che un certo giocatore della Torres, ex giocatore della Torres, l'aveva picchiato perché era andato in una discoteca, questo è quello che ho sentito, e poi se è vero non lo so, ma suppongo di sì. Era andato in una discoteca, Ettore era il bronzo, e questo l'ha buttato fuori, non so, e poi si è picchiato con questo tipo qua. No, non era il giocatore, aspetta, sto sbagliando. Il giocatore della Torres era una questione di lavoro, un geometra, che è uno alla sinistra che aveva una volta la Torres, e aveva bestiato con quello. No, stavo confondendo. Lui è andato in discoteca e c'era il buttafuori. Il buttafuori l'ha buttato fuori perché lui era ubriaco, forse si stava comportando male. Questo è il giorno. L'indomani Ettore è andato e a quello l'ha messo a KO, perché allora era sobrio, non era più ubriaco, capito? Buonasera. Ciao Claudio. Sì, no, ma già mi ha detto che non temeva nessuno, infatti babbo lo conosce da ragazzina, ha detto non temeva nessuno, perché dice era una forza della natura, era un grande incassatore babbo, dice alla fine dice si flaccava nel cudillo, perché dice talmente incassava come colpi. Poca gente gli ha messo le mani addosso, ha detto uno che era un ex pugile, il suo Fradi me l'ha raccontato, dalla mattina fino alla sera picchiandosi, come si trovavano, per dire, si picchiavano adesso, poi se ne andavano, dopo mezz'ora si aggiornavano a ciappa e si duravano a qui. Sono stati dalla mattina sino alla sera picchiandosi. Break! Registrato il break, sì. E adesso non mi ricordo se era Altana di Porto Torres, quello che stava facendo, che faceva il buttafuori, che l'aveva buttato fuori dal locale perché era ubriaco. Però l'indomani già è andato e già si è fatto bene, altro che se si è fatto bene, era grande. No, no, non, i colpi li resisteva in una maniera impressionante, è stato sempre un uomo molto, molto forte, ma veramente forte. E soprattutto era un grande picchiatore. Va bene, facciamo entrare il break, avanti il break. Buonasera a todos, Gianni doppio room, cambio. Ciao Gianni, c'è anche Claudio, avanti Claudio. Buonasera a tutti, evidentemente Giulio non mi ha registrato, sono rientrato adesso, che ero a ritirare la signorina dal bar, che ha chiuso, sta giocando la mondezza. Cazzo, c'è un mondo, per non dire un mare, infinito di gente in giro, da tutte le parti. Avanti Giulio. Ok, ciao Cla. Sì, in effetti c'è molto traffico, io sono rientrato una mezz'ora fa, anche un po' di più di mezz'ora, e c'era molto traffico, ero lì da Bricomen, ma c'era pochissima gente, nel negozio c'era pochissima gente, proprio non l'ho mai visto così vuoto col negozio, però traffico di macchine e in tutti i semafori, in tutti gli stop dovevi fare la coda per uscire. Vabbè, avanti Robert. Vabbè, le ultime compere per Natale stanno facendo. No, io domenica sono uscito in macchina, ho fatto tutto il centro storico, sono passato dal corso, Piazza Tola, sceso di lì via Pettinato, ho fatto tutto il giro, ma tu e la gente che c'era di domenica è in giro, e poi sono rimasto a bocca aperta, considerando che non è che ci siano tutti questi negozi aperti, eppure c'era un bel di gente, forse perché sono chiusi i centri commerciali e la gente dice finalmente fa lavorare anche i negozietti. Non sai come succede, il Predaniede ormai è il centro del commercio, è Predaniede. Per cui li trovi tutti lì, le persone, le macchine le trovi tutti lì comprando nei supermercati eccetera. Comunque ti volevo completare anche il discorso, più su di Giulio Murito c'era Callotta a 10 metri da Giulio Murito e altri 10 metri c'era Ettore, ecco tutto lì, sempre nella stessa via, nella stessa fila di case. Vabbè, a parte quello, avanti Claudio. Kappa, comunque non era Maria Altana sicuramente, forse era Gabino Iacomini o qualche altro. Maria Altana a quei tempi non lo buttavi a terra così, no? Ok, avanti Gianni, sempre in giro in macchina, sì. Kappa, Giulio, come mi ascolti di segnale dalla barra mobile, cambio? 9 più 10 già, 9 più 10. No, guarda, non sono sicuro, ma mi ricordo invece che proprio Altana, che faceva il buttafuori in un locale, in un paese che non mi ricordo quale paese era. E la notte c'era questo che era ubriaco e l'hanno buttato fuori, ma poi so che si è rifatto bene, perché ti posso garantire che di Altana quello se ne fregava, e alla grande anche, magari sul ring, con tutte le regole del pugilato, Altana sicuramente sarà stato più forte, ma quando poi entra in mano a quello colpo a colpo, sei tranquillo che quello ti spezzava le ossa, te lo posso garantire. Vabbè, dai, avanti Robè. Dice l'unico che un po' li stava a testa era Coso, Arcangelo, mi hanno detto, che poi l'hanno messo pareti, l'unico che li stava lì dava a testa. Anche quello già era uno suo duro veramente. Però ti posso garantire che Ettore. Sai qual era? Il difetto di Ettore che purtroppo era un bevitore. Però quando era sobrio, stai tranquillo che no, non ce n'era quasi per nessuno, ti posso garantire quello. Va bene, dai. Sì, una volta si è permesso un ex giocatore della Torres, un ex alla sinistra, adesso non faccio il nome, si è permesso per questioni di lavoro, no? E gli ha dato lo schiaffo, ma a Ettore gli ha dato lo schiaffo. Suia, vabbè dai, è meglio non raccontare nemmeno queste storie. Avanti Ettore, avanti, Ettore, avanti Claudio. Se divento Ettore pure io, allora è guai, eh. No, beh, io ero ragazzino quando assistivo agli incontri di pugilato a Porto Torre, cioè che veniva tutti i santidì nei bar, in piazza e quant'altro, quindi conosco perfettamente quello che stai dicendo. Ok. Cato Gianni, devo fare i complimenti, una bomba sei con dalla macchina, veramente, stai uscendo una cannonata, sei 9.25, quasi 9.30, radio Super 5. Cava cava, eia. Vabbè dai, sono ritornato come ero prima, dai, stessa stazione, invece di mettere modificato sto mettendo il 980, dai. E tanto già va bene lo stesso. Penso che se lo mangi anche, bellissima modulazione, bel segnale, c'hai tutto quello che serve, dai, vabbè. Io sto andando con 574, Roberto, va bene, sì, ho saturato di nuovo anche questa, ti abbatte il segnale? No, ti devo attenuare, classe, è troppo forte, è fortissimo, devo fare, togliti 20 dB, se no saturi con me. E da Roberto come sta arrivando? Così sono normale, Roberto, come ti arrivo? 9+20 con i picchi positivi. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova, cambio. Un pochettino più di 9,20. Non lo so, dovrebbe aumentare almeno di due segnali, da 9,20 a 9,30, almeno 9,35. No, qua non è, per dire, quasi 9,25 ci è arrivato, da 9,20. Ma dove sei già? Ehi, vabbè. Sei vicino? No, molto lontano. E che zona sei? Non si dice. Ehi, cacchio, cos'è la tacciata? Capisci a me. Vabbè, non c'è problema. Vai Giulio. Ok, no, modulate comunque 9,10 qua già. Apportante 9,5, però modulate 9,10, sì, che la radio è ultima, va benissimo. Non c'è problema. Va bene, dai. Cosa dire? Di cosa parliamo stasera? Dello schifo della Juve, Claudio. Mamma mia. Vabbè, purtroppo non sempre si può vincere. Vai Claudio. Infatti tocca cantare le canzoni. Non sempre si può vincere, ma si può sempre perdere. Dai, un professionista del genere non può tirare un rigore a quelli belli. Giulio, per favore. Io sono amante del calcio, sono sportivo, tu lo sai benissimo, sono juventino, però sono sportivo. Ma non puoi tirare un rigore del genere, assolutamente. Mi sono veramente incazzato perché non si può tirare un rigore del genere così. Vabbè, comunque. Avanti, Robè, fai girare. Non tutti le piace il calcio, io la Juve, te l'ho detto, meglio che non la guardavo. Ho guardato l'ultimo pezzo proprio quando è iniziato a fare schifo. Avanti Roberto. Vabbè, diciamo, la concentrazione molte volte ti fa fare questi brutti scherzi. La cosa più ridicola, però non gliene do colpa, forse secondo me era convinto di essere in fuorigioco Morata quando ha fatto quel tacchetto. Quello già l'ho visto io in diretta, per carità, ma quando mai, ragazzi, uno deve fare questi giochi così? Scusate, mi telefonate. Ma cosa vuoi dimostrare? Devi dimostrare invece di guadagnare i 10 milioni all'anno che ti guadagni, quello devi dimostrare, non i giochi di prestigio. Quei giochi si fanno al circo, si fanno, boh, non è possibile, anche quello è incredibile. Ha avuto, cioè, per non parlare poi dell'altra tu per tu col portiere che gli ha tirato il pallone proprio in faccia, e poi non capisco la soluzione dell'arbitro, tra l'altro, perché ha preso la pallonata in faccia il portiere e il pallone è stato ribattuto e poi è stato messo in rete, è stato messo, beh, l'arbitro ha fermato il gioco perché il portiere era per terra, ma quando mai? Perché tra l'altro una pallonata in faccia, ma dai, cos'è d'altro mondo? Prima deve lasciar concludere l'azione, non puoi tu interrompere perché uno ha preso la pallonata in faccia, ma non è questa cosa. Boh. Vabbè dai, comunque. Avanti Claudio. Sono rientrato. Sì. Claudio, ci hai sentato forse Gianni? Io ci sono sempre qua e mi fa piacere ascoltarvi tutti. Non so che dire. buttato via. E vabbè. Comunque stasera portate, non se ne sente, meno male. Ah, metto io, dai, così cacca non vi faccio parlare. No, no, scusate che ero... Già sono qua, non c'è problema. Ok. Ti ho detto, Robè, questo è il 574 e non è il l'Inuit, questo è l'altro, il Midland in base, non so se l'hai visto, poi domani te lo faccio vedere. Ma c'ha una modulazione allucinante. Ti sei ammazzando, casca, pure tu. Io ti sto ammazzando, vedi, così è questa, con l'MB5 non è che abbia niente di particolare, non sto gridando, non sto facendo niente. Avanti, Mastro Giulio, com'è lì da te? Tutto a posto, segnale, radio, tutto ok? Ehi, ho voglia, qui alla grande, proprio, la radio è perfetta. È perfetta di così, no? È impossibile, guarda. Va benissimo, non c'è problema, io non ne sento nessuna saturazione, perché siamo distanti. E il segnale è quasi 9.20, 9.18, 19, dai, siamo lì. Per cui, a voglia, ce n'è. Ce n'è in abbondanza. E vabbè, comunque ho mezzo interpretato l'idea di Gianni. Gianni più o meno ho capito, vabbè, perché non hai voluto dire la zona dove ti trovi. Ho capito, perlomeno ho pensato di capire, dai. Oh, io. Avanti Gianni. E meglio non dire le zone. KK. Andà bene, cosa vuoi fare? Ma cosa senti? La nostalgia della portante? Oh, lascialo perdere quello. Tanto non ce ne frega più di tanto. Lui, se vuole fare il cretino, lo faccia pure. Noi non beviamo lo stesso, non è un problema. Avanti, Robè. L'altro giorno ero in camera, cioè, guardavo proprio la partita, non so se era martedì forse, acceso, c'ho quella radiolina piccolina, tipo il Tex, quella è tipo un pacchetto di sigarette, con l'antennina sua che sarà 10-15 cm di antennina, e ti ho ascoltato in camera mia Giulio, chiaro, pulito con quella radiolina, infatti sono rimasto a bocca aperta, ma forte di radio, perché ti indica anche il segnale, l'intensità in decibel sarà, a parte Claudio che era attaccato, arriva a bomba, però ti ho ascoltato benissimo la radio 5 con una radiolina tipo quanto un pacchetto di sigarette giù. Ci sono certi ricevitori che hanno una sensibilità estrema proprio, per cui può succedere, non mi meraviglia, perché io negli anni passati ce l'ho avuto io un ricevitore che sentivo da molto lontano, ma veramente molto, cosa che altri non riuscivano a sentire col barattino, me lo ricordo benissimo questo particolare. Io col ricevitore sentivo, col barattino facevo fatica, ed era evidentemente, aveva una sensibilità straordinaria, e così è quello che hai tu. Meglio così, sono contento. Avanti Claudio. Io ho questa che è favolosa, tra questa, il Poli, l'Inuit, ma anche il Pace, si sente proprio benissimo, bella ricezione, questa poi è una radio eccezionale, questo è un Midland base di vecchia serie 78574, 40 canali con le bande laterali e funziona bene, ma anche gli altri che ho funzionano bene, non c'è problema. Avanti Gianni. Appunto, ne hai troppe, quel Milan dallo a me. No, già, te l'ho spiegato, perché no, assolutamente, è una cosa che ho fatto e niente, ok, va bene. Avanti Robè, se vuoi abbasso la potenza Robè. Io te devo attenuare, te l'ho detto, te devo attenuare perché sennò è troppo forte. Cosa stavo dicendo? Ma non me la foto, ma me l'hai fatta bene questa radio? Non so, l'ho presa ieri mattina, non penso. Mandami la foto, non lo conosco, almeno con quel codice non mi ricordo. È molto bella, è molto molto introvabile anche, c'è scritto anche non... Praticamente c'è un posto dove dice che è molto, molto rara. Ho capito, sono curioso, me la fai vedere. Ok, vai Giulio. Ok, adesso vi ho attenuato anch'io, vi ho attenuato così per curiosità. Claudio arriva quasi centratissimo, quasi 9 di segnale attenuato. E tu mi arrivi un pochino più del 7 o... Robè, 7 e mezzo, dai, più o meno. Gianni, forse anche Gianni ha ripreso il vulcano. Siamo avanti, Gianni? Ehi, allora, io come ti arrivo, attenuato? Attenuato, tu modulati e arrivi 7. Per cui stai andando benissimo anche tu, non c'è problema. Tutti alla grande, tutti alla grande, va bene. Stavo dicendo, Roberto, perché come, oggi come mi senti? Meglio o peggio di quella radiolina che mi stavi dicendo? No, no, ti sento benissimo, anche l'altro giorno ti ho detto, adesso ti sto ascoltando col baracchino grande, ma l'altro giorno ero nel letto con il cazzo e c'era la partita, avanti ieri mi sembra, ieri, adesso mi ricordo, ti ho acceso un attimino, ero guardando la partita e te c'è se c'è qualcuno, e c'eri tu, Claudio e anche Gianni. Gianni, no, forse ero in cucina, non ero in coso, in cucina ero, però ho detto, te c'è se c'è qualcuno, perché stavo facendo cosa in cucina, ho detto, acceso la radiolina, ho detto, mica, Giulio si sente, no, com'è che la Claudio, vabbè, siamo attaccati, e sentivo anche a Gianni con l'antennino piccolino e di quelle telescopi ci sarà 15 cm di antenna, non di più. Sì, e mi immagino cosa è radio, perché ripeto, come ti ho detto poc'anzi, ce l'ho avuto io tanti anni fa un ricevitore e poi mi era caduto, si era spaccata la carcassa e allora l'avevo messa da parte. L'avevo messo, ma era di una sensibilità estrema, ma veramente, te lo sto dicendo, sentivo meglio con quel ricevitore, che in realtà era un transistor, un radio transistor a 8 lunghezze d'onda, 8, compreso anche onde lunghe, eccetera, sicché onde lunghe, onde corte, eccetera, eccetera. Ed era una radio giapponese, era bella, veramente bella. Mi è dispiaciuto quando mi è caduta e vabbè, pazienza, era andata così, ma sto parlando di tanti anni fa, sto parlando di almeno 30 anni fa, forse anche di più, e aveva una sensibilità estrema, ma prendeva tutto, sai cosa vuol dire tutto? Prendeva ad esempio la domenica sera quando andavo in giro a vedere qualche partita fra i campi di dilettanti eccetera, no? Accendevo quella radio, ma si sentiva che era una chiarezza indistinguibile, proprio indefinibile, era una cosa eccezionale con la radio. Mi era caduto, pazienza, me l'aveva regalata mia moglie, mi ricordo. Vabbè, dai, pazienza, è andata così. Avanti, Claudio. A Gianni, aspetta, vai già. Claudio, l'unica cosa che ho notato è che a casa con questa radio si attaccavo il 747 al massimo della potenza distorceva, invece qua non distorce. No, sta andando bene già, veramente un'ottima radio, ottimo segnale, un segnalone, ma la presenza radio è bella, molto bella, bella corposa, bella amplificata, sembra a casa già. Se tu non me lo dici io dal segnale penso che sia a casa. Capito? Va bene. Ti piace Robè? Sì, sì, bella, no, non la conoscevo, bella radio. Mi serve vendere un museo burudo. Sono belle cose, poi sono sempre degli investimenti. Un domani che devi vendere qui le vendi anche di più di quanto le hai pagate, perché sarà sempre più raro trovarle. Ok, no, Gianni, anche io ti ascolto perfettamente, per certi versi anche meglio di casa tua, per la radio, mi piace di più. Questo qua è il magnum, a casa non c'ho il magnum, vabbè. Comunque. No, già va bene, questa radio c'ha il microfono normale, però c'ha il top gown e quella lì la fa pompare forte, gli dà la spinta alla radio, capito? Molto forte, presente, diciamo, non è bassa, bella chiara ma non è distorta. Ok, l'hai presa ieri qua questa? Sì, l'ho presa da Gianni, gli ho portato il Comstat per mettere a posto e... Ero già attaccato da questa estate, ieri mattina c'è tutto, malavatta, contentissimo perché ce l'ho io, quindi me l'ha raccomandata, ma non esce da qua, non ti preoccupare. Sì, l'ho presa ieri mattina. No, oh, carina, mi piace. Ok, Giulio, a te il mic. Ok. Sì, beh, certo, se piace, piace, non c'è da dire, purtroppo è così. Cosa dire? Di cosa parliamo? Abbiamo parlato del più e del meno, di qualcosa di più interessante, cosa può essere, sai? Lancia un discorso, Ocla. Il discorso di lancio, perché ho detto, gli ho portato il Constat a mettere a posto, sostituendo il coso, il trasformatore originale, gli ha messo il connettore originale dietro, e c'è un bel pezzo di quella racchia. Quindi adesso deve aspettare che ha ordinato le valvole, perché non ce li ha quelle, e poi alcuni condensatori, alcuni diodi, transistor, insomma, ce la mette a posto. Te lo sto mandando, Giulio, perché è veramente molto molto bella questa radio, molto molto bella. Non so di cosa parlare, boh, cos'è lui, Trick, non lo so. È un periodo che sono un po' fuso con mia moglie, che ha ancora questa cosa. Io è andato a controllo, abbiamo tolto anche i punti ancora. Vabbè, aspettiamo, dai. Gianni, cosa c'hai da proporci? Nara, guarda, te l'ho mandata Giulia. Parliamo di donne, che così ci ringalluzziamo. Di donne, a questa età? Sì, per ringalluzzirti, no? Lui, lascia perdere, mi ha sonno. Roberto, mica è giovane, vai Roberto. Adesso cosa mi è venuta in mente, mi hanno mandato un video che bastardi, questi di un supermercato, fai conto, la Conad, il Cobec, eccetera, eccetera. C'era una anziana sul mercato, fai che ci abbia avuto occhio e croce 65 anni, dai, non era vecchia, dai. E stava camminando, all'altezza degli scaffali c'era una suora, e come si è mossa, gli è passata vicino che c'era il carrello di traversa, come si è mossa, allungata appena il piede questa suora per girarsi, e gli ha fatto lo sgambetto, ma cacchio, inavvertitamente. C'erano quelli che fanno il controllo della sorveglianza, dice, secondo me il rigore, guardiamo le immagini, hanno fatto, ci sentono i commenti loro, hanno fatto le immagini a rallenti, e poi l'hanno rimandata indietro, sì, il rigore, l'ha toccata. Mi trampata va biliardo, questa donna mi ha fatto troppo ridere. Quindi hai dato un rigore. Vabbè, potevamo farlo tirare a Ronaldo oggi. Vabbè, Ronaldo ieri si vede che non era proprio in forma. Avrà avuto qualche problema, che lo sa. Boh, comunque, cosa vuoi? Ronaldo in tutta la sua carriera ha tirato roba di 140 rigori, ne ha sbagliato 25, 27, 28, una cosa del genere, tutti gli altri li ha messi a segno, per cui non è quello, ma poi si può anche sbagliare, ha sbagliato Maradona, il rigore, perché no? Hanno sbagliato in tanti pure classi hanno sbagliato il rigore, non ci vuole niente, anche perché c'è il portiere, anche il portiere e può intuire benissimo alle volte un rigorista da quale parte glielo butta. Va bene, tornando al discorso di quell'alimentatore, se lui è capace a togliere quell'alimentatore e di inserirlo nell'altro, visto e considerato sempre che quell'altro funzioni bene, stai tranquillo che accende e funziona, perché funziona. Perché io quello l'avevo, ho fatto l'avvolgimento nuovo, l'avevo fatto a mano, avevo aperto il trasformatore, avevo tolto tutta la matassina che c'era dentro e l'ho fatta io a mano. L'ho dovuta fare a mano perché bobinatrice non ne avevo. E infatti, non standoci più di tanto dentro, come avvolgimento, una quantità di filo, mi sono dovuto fermare a quella misura proprio per poterlo chiudere anche questo trasformatore, e dava 180 volt, dava anziché 220, però tieni presente che 180 volt per le valvole va benissimo, non c'è problema, funzionano ugualmente bene, magari tardano un pochino di più a scaldare, questo non è un altro discorso, però come funzionamento deve funzionare. Se lui sa applicarlo bene, quello che a lui, che è sempre che funzionasse già da prima, stai tranquillo, perché se dipende solo dall'alimentatore è in grado di metterlo a posto, sempre che lo sappia fare. Poi non sto dubitando, ma suppongo di sì. Va bene, dai, avanti qua. Oh, quella radio lì è un mago, si è spiazzato. Ci ha già tutti i pezzi. Oh, trasformatore suo originale a 110. L'ha fatto tutto originale, ha già messo il connettore alimentazione originale, gli ha tolto quel pulsante, gli ha messo il, perché quelli gli hanno applicato, gli ha messo il suo originale, che quello ha un'altra funzione. Sto dicendo che c'è una nuova roba per la radio, è bravissimo. Gianni è un mago su quelle cose, tranquillo che è un mago, te lo dico perché è un mago. La sa fare, la fa anche bene, lo fa anche bene. Ti stavo dicendo giù, poi rilancio Roberto, non hai il microfono di quella radio? Ma se vuoi dire la verità non me lo ricordo nemmeno, ho dato via tante di quelle cose in questo periodo che non so nemmeno se, ma non credo però, credo che il microfono l'avevo adattato con un microfono amplificato già da allora, a quei tempi, perché io l'ho usato parecchi anni fa, per un annetto buono, per oltre un anno. E funzionava alla grande, mi davano anche dei buoni rapporti eccetera. Ripeto, quando me l'hanno dato non funzionava proprio a causa dell'alimentatore, e allora io ho fatto quella modifica ed ecco che andava bene. Non solo lì, ne ho fatto anche ad altre, anche apparecchiature, io ne ho ad esempio 5 radio antiche, radio antiche, addirittura col giradischi sopra, e anche per quelli ho fatto modifiche, tipo che so io, ho una, non mi ricordo che marca è adesso, infatti anche stasera lo stavo ascoltando sui Mansalda, che ci aveva una valvola che era alimentata a 50 volt, a 50 LSI se ricordo bene, un bottiglione praticamente, una bottiglia. Siccome quella valvola non si ritrovava più, non ero più riuscito a trovarla, allora l'avevo sostituita con una valvola a 6 volt, 6 LSI, me la ricordo come se fosse oggi. Naturalmente ho dovuto fare una modifica nell'autotrasformatore, perché uno è alimentata alla valvola a 50 volt, l'altro è alimentata alla valvola a 6 volt, perché le caratteristiche sono uguali, solo che cambiava la tensione della valvola stessa, e più ci avevo messo dei diodi al posto della raddrizzatrice, della valvola raddrizzatrice, perché questa era una radio che mi avevano dato e l'avevano messa da parte perché non erano stati capaci di sistemarla. Io al posto della valvola ci ho messo dei diodi, tre diodi, li ho inseriti dentro la zoccolatura e funziona alla grande, non c'è problema, capito? Ma erano modifiche che facevo quando avevo buia, a basso gubiccio, ormai non me ne passa più per la mente di fare certe cose. Scusate il passaggio lungo, dai, mi prendi qua e fai girare. Sì, cambio per Roberto, vediamo che era il telefono, avanti Roberto. Prega, no, c'è il parcheggio Gianni, avanti Gianni. E Gianni invece ha il telefono anche lui, già, Gianni quando si assente al telefono. Lo sappiamo, lo so già, dai, me l'ha già detto, quando non rispondo vuol dire che sto al telefono. Sì, ma l'ha già vista, ci sono delle cosettine da vedere, ma già la fa funzionare, tranquillo, già la fa funzionare. Vuole dare una verniciata tutta di un colore e già va bene. Ok, avanti, va bene, riprendi, non sei uscito stasera. No, adesso vado a vedere mio padre, c'è mia sorella, mi ha detto che stiamo prendendo le pizze a Civile, ho detto, infatti sta aspettando 5 minuti, e ha chiamato, ho detto già avevo 10 minuti in radio, tanto la dice arrivano alle 7 e mezza le pizze, già non devo fare molta strada. Sì, vabbè, devi fare un pianerotto. Già va bene. Io. Lo stavo dicendo, e magari se guardi entro qualche cassetta lo trovi, perché è molto particolare quel microfonino, è molto bello, è simile a quello dell'HB23, però rimane più piccolo, capito? È molto bello, io l'ho avuto quel microfono. Mi piacerebbe avere anche il microfono originale, perché del Pace ad esempio c'è il microfono originale, di Questa c'è il microfono originale suo, proprio marcato suo. Il Pace è, cazzo, è curioso quel microfono, allucinante, è quadrato, piccolino, c'ha la scritta Pace, lo stemma del Pace. L'Inuit è lo stesso, microfono originale, del Poli c'è il microfono originale, dell'Inte che c'è il microfono originale, ce li ho tutti originali, capito? Quindi mi sarebbe piaciuto avere anche quello, vabbè, se magari qualche giorno ti metti in tutta quella roba che hai, sicuramente già lo trovi. Avanti Giulio. Può darsi, non lo so, può darsi anche, vedrò, cercherò di vedere un po' se c'è. Non lo so, anche perché ne avevo dato alcuni dei microfoni a quel nipote. Vabbè, comunque, chissà, magari se sta anche usando lui. Comunque, vedremo, dai. Vedrò. Non mangio più gana, no, non ne ho più voglia di queste cose. Prima mi passavo delle intere giornate, parlando di domenica e di sabato, quando non lavoravo, che si faceva festa sabato fascista e domenica. Intere giornate, non uscivo mai, attaccato sempre con questo dottore fumante. Facevo tante di quelle cose che poi alla fin fine, la carità, ho passato, infatti mia moglie alle volte mi dice, ma quando mai, sempre attaccato con queste cose, sai, facevo, costruivo, poi smontavo, utilizzavo gli stessi componenti per fare altre cose. La volta, però la soddisfazione più bella è quello quando ho fatto un ricevitore a reazione, quello mi ha dato delle soddisfazioni a riguardo di una famiglia che mi rompeva le scatole perché diceva che io interferivo nella sua casa con la radio. Assolutamente no, non era vero, ma era giubato bassa la gana, però un ricevitore a reazione era micidiale, va bene, avanti, va bene. Che cosa radio stai parlando tu? Constat 23 Mark Shea, che è molto raro, portato da Gianni a mettere a posto. Sempre stazione base. Sì, stazione base, mi ha dato Giulio. Stazione base, certo, va a lavorare. Come il Constat 25B, 35B, questo invece è un 23, molto molto raro. È un Constat 23 Mark Shea, molto molto raro. Ma poi quello Inter, io ti avevo dato il microfono da Inter che mi sembra che era 6 puli, poi è andato bene, classe. Sì, e beh, però non si tocca, quello è attaccato, ci sono tutti i microfoni originali. Nelle radio ci sono i microfoni da tavolo attaccati, in uso, perché sono tutte in uso le radio, posso commutare e usare qualsiasi tipo di radio, adesso sto facendo andare un po' questa, e a fianco, con il suo attacco, c'è il microfono originale in tutte le radio. Non capisco come mai ce l'avevo questo Inter, quello è originale Inter che però è a 6 puli, non ho capito, o a 5, ma non mi ha messo, se era a 5 o a 6, quanti era? A 5. E perché gli altri sono a 6, non capisco di che radio era quello lì, perché gli altri che c'ho ce l'hanno tutti a 6 e c'ho i suoi microfoni. Oh, io adesso devo lasciare, dai, che vado a mangiarmi questa pizza che mi hanno invitato. Ci sentiamo, ciao Claudio, ciao Giulio, Gianni sia all'ascolto e tutti gli eventuali amici su Canale 10, ciao ciao, ci sentiamo in altre occasioni, passa quando vuoi Claudio, ciao ciao. Ehi, a domani mattina faccio, vabbè, devo parlare con Marcello, adesso mi fa quel lavoro. Ok, ciao, vabbè, ciao, ci sentiamo, alle prossime. Sì, infatti qua ho lasciato tutte le valvole, hai visto, ci sono 9 valvole, ho lasciato tutti i quarti anche proprio perché volevo magari darti la possibilità di metterla a posto. Io la verità non ne avevo più voglia, poi l'avevo, tra l'altro te l'ho detto tante volte, a me non mi piace la stazione base e dunque me ne sono fregato. Se non funzionava, magari era una fesseria, può darsi anche che sia qualche valvola, qualche condensatore, che ne so. Io una volta che mi si era bloccato l'ho messo da parte e non l'ho più visto, non l'ho più usato, l'ho messo dentro la scatola e basta. Perché se mi mettevo con un po' di pazienza, senza nessuna presunzione, ma con la capacità che ho io, l'avrei messa a posto, ma non mi interessava, perché a me, ripeto, la stazione base non mi interessa assolutamente. Va bene, dai, riprendi qua. E me l'hai già spiegato. No, a me piacciono molto i bassi, ho fatto un capolavoro veramente qua, devo farlo da anni, anche quando c'avevo l'altra base, quella che hai fatto tu, quella aggiuntiva praticamente a L. Finalmente mi sono deciso quest'anno, l'ho staccata e praticamente dall'altra parte ho le, come ti ho fatto vedere la foto, ho le HF, le V e le U, e da questa parte, in quella grande che è tassellata a muro per capirci, lì ho tutti i vintage, tutti i baracchini, tutti, con la sua alimentazione, l'antenna che arriva dall'altra parte perché c'è il commutatore a parete a 5, quindi l'alimentazione, vabbè, tutta a 220, tutti i cavi sono sotto traccia, praticamente canalizzati, ho fatto un bel lavoro. Dovevo farlo da prima, magari mi sarei divertito anche di più. E sto sempre parlando con queste. Sto facendo girare una ogni tanto, però escono veramente molto molto bene. Sì, esce bene, non ci sono dubbi, esce benissimo. anche questo che io qua, questo Cobra 139, lo stesso, anche quello funzionava a 110, funzionava, infatti poi gli avevo addirittura staccato l'alimentatore interno e l'ho fatto funzionare a 12 volt con l'alimentatore, perché funziona anche con l'alimentatore, con le due tensioni, ma se no qua ci vorrebbe l'alimentatore a 110. Anzi, a dire la verità, c'è l'alimentatore dentro, però chiaramente se lo togli magari non va più la radio, ma ce l'ho così, perché ce l'ho. Avevo fatto pure una modifica qua, ci avevo messo una quartiera a parte, con 5 quarti mi sembra che sono, sì 5, e da 23 canali l'avevo portato a 37, usufruendo anche dei due o tre canali soliti, tipo che so io, tanto per fare un esempio, siccome ci ho messo un potenziometro anche esterno, ci ho messo, mettendo ad esempio, sintonizzando la radio sul canale 1, per dire che so io posso avere i canali che ce li ho qua, aspettami, te lo dico subito, che ce li ho segnati, perché in caso di necessità io lo posso sempre utilizzare. Avevo fatto una lista, l'avevo fatto dove mi serviva per questo motivo qua. Allora, se io metto, voglio ottenere il canale 24, 25, 26, 27, con la leva alta, il commutatore, tutto a destra, e poi girare, mettere canale 5, ecco, metto sul canale 5 e ottengo il 24, il 26, cioè il 24, il 25, il 26 e il 27, tramite naturalmente un commutatore che faccio la deviazione, e così per altri canali o ad esempio anche il canale 9, per avere altri canali e così via, dai. Insomma, in tutto 37 canali sono riuscito ad avere, da 23 originali. Se non avete cercato, sono entrato. E io, dove sei, a casa? Io. Va bene, sì, ti ho rilanciato io, pensavo che eri al telefono, riprendi già. E io sono andato a questo momento, intanto ho visto che non c'era più da parlare. No, sei saturo, perché? Sei saturo già. Aspetta che sto controllando. Sicuramente c'hai il coso attaccato, non ti sei accorto. Ok, signore, quanto sta arrivando? Oh, aspetta. Io ti sento saturo, tu Giulio? Sì, infatti non era pulita come prima, non era pulita, però adesso è anche più forte il segnale già, si vede che è aumentato ancora un po'. Adesso quanto sono il segnale? Adesso si è fisso 9-10 di segnale, di portante, per cui, però ripeto, c'è un pochino, forse lo stai alimentando troppo adesso, gli stai dando troppi watt in entrata. Guarda adesso come va, 1, 2, 3. Adesso va bene, adesso va benissimo, sei meno di 9-10, ma sei abbastanza chiaro, adesso ti sento chiaro io. Vai Claudio. Sì, adesso sì Gianni, adesso sì, 9-20 era 10. Stai diventando sta Gianni, capito quasi, che per dirtelo, io ho fatto tante di quelle cose, però allora avevo la pazienza, avevo e ero giovane, eccetera, eccetera. Cos'è che non ho fatto? Pacare dai, ero sempre col soldatore in mano, infatti mia moglie mi diceva sempre, ma sempre con questo soldatore in mezzo ai piedi, sì. Infatti, anche perché abitavo allora nell'altra casa, la casa era piccola, ero in affitto e lo spazio non ce n'era. Adesso che ho la casa grande, che ho tutto lo spazio che voglio a disposizione, addirittura posso avere tutta la mansarda a mia disposizione, non posso più niente, non faccio più niente. Ui, vabbè dai, riprende qua. Perché potrei passare a voglia, no? Io ho un sacco di cose, facevo lo stesso, ci muovo tutto, già va bene. Avanti Gianni, riprendi. Io adesso sono ancora...